pussisca tu la che perde il peso, ma non il vizio di perdere il pelo. Ti ho beccato con le mani nel pacco, mi hai ferito ma un gran mal di pene. Mi hai aperto gli occhi e per questo che ti voglio bene, come Parigi vuol bene, una messa la credevo diversa, anche se l'arbitro non fa il monaco, pure ti odio, non so, ci penserò. La notte porta scompiglio. Se non è solo un colpa tua, ma l'occasione che fa l'uomo. Is a part of woman. Io orfano d'arte, la imparo per poi giocarmela a carte. Il dado è matto, brindo alle chance. Chi si ferma è caduto. Forse non è solo colpa tua. Un vero amico è come cercare un mago in un pollaio, è come voler disorientare l'Oriente, quindi meglio solo che pan bagnato. Chi a causa del suo mal pianga più spesso. Perciò aiutati che Dio ti sputa, ma Dio non si deve chiedere grazie, si può solo rispondere prego, o dice che Dio è morto, ma morto un Dio se ne fa un altro. Damo di un po' che questo è il mio nome, ti benedica Dio, disgrazie a Dio, sono ateo, perché se c'è un Dio, Dio non c'è, forse Dio resiste, Dio c'è o ci fa. Man is a part of woman. Io orfano d'arte, la imparo per poi giocarmela a carte. Molti nemici, molto dolore. Chi muore non si rivede. Limitiamoci ad esagerare. Perché oramai non è mai ora, perché oramai non è mai ora. Su, da che ora è? Ok, siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio 1, 112 e rotti, poi questo dipende dalla vostra educazione. Abbiamo ascoltato gli Uno, Unidentified Noise Object. Insomma, dalle parole abbiamo anche potuto supporre, insomma, un passato di peccati e un futuro di pentimenti. Con tutti questi proverbi un pochettino stravolti. E quello che mi viene in mente, forse, anzi, quello che manca in questa canzone, un proverbio mitico, rosso di sera, marchese si spera. Continuate a rimanere con noi, ora ci sono i nostri consigli per i vostri acquisti, non certo per i miei. Te lo giuro.